Sotto strani effetti della pressione esterna, suono alito, sfera, respiro, sospiro. Lasciami sto dire, ti saluto, perché da infiniti rem solo paranoia. Mi stimoli, brividi sui zigomi, gonfie palpebre, blebri, polposi, ciuffi. La praga su praga si sprega, oh, ma non mi frega. Non vedo l'ombre ma non l'ombra, cavalco l'onda. Rumori e merda, infiniti rem, stati effervescenti. Come Nick, Pennywise, galleggiamo tutti. E gira, se gira, gira, se non giro, caca. Se ti snodi mentre cachi o di cassa. Tutto, vo stare su prosciutto letto. Rifletto su flessi, flessibili, fraudolenti e franchi. Forza tutti, fitti, fitti in fila. Attente filamenti di sgomento. Genero un feto importante. Flussi deteriorati a flemma. Fiamma inganna. Sopra sotto la panca non si campa più. E non si campa più. E non si campa più. E non si campa più. E non si campa più. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Amarabacci, cicco, cauta, scimmiette sulle spalle. Padre, io morto, peccato, io non ho mai capito il concetto del tre. Credevo fossimo educati a geometrie, piuttosto guide con una mano appunto il dito, nell'altro il bicchiere, il concetto molto strano, B-Bork, i miei quattro asterischi, B-Bork. Bruno batte le mani, Johnny c'ha l'amico immaginario, Marco tira qua, ti dà qua, dico dentro l'acqua, dico fino a qua, dico paura, dico dentro l'acqua, dico fino a qua, acqua staglia.